alla fine poi un signore è riuscito, non so, l'ha preso per la coda, l'ha tirato e ha mollato, se ne è entrato dentro un bar e il cane lo inseguiva anche dentro il bar e voleva lui, non, gli altre persone non le cercava, capito? Una cosa micidiale. Caro, ti sto mandando un messaggio. Eia. Non lo so, sì, può essere pure, capito? Come mi dicevi, già può essere. I cani poi reagiscono, capito? E non lo sai mai, poi soprattutto quando sono di quella categoria di molossi, rottweiler pure, capito, sono molto aggressivi, capito, e se poi non li sai educare bene hai finito. Anche il mio molosso, molossoide, però il mio c'ha questo, che se una persona la conosce gli fa le feste, però non sopporta che siano troppo assillanti, che gli facciano troppe care. Una carezza va bene, ma se poi continui a farle si gira le scatole e ti mosca. È fatto così, infatti io li metto la museruola per quello, perché molta gente pur dicendo non tocca lo stesso. No, io già li lascio in pace, capito? Io infatti già me lo ricordo il tuo, quando ero venuto a casa tua c'era in cucina, si era messo sdraiato a terra, capito, buono, ovviamente tu gli avevi detto di stare buono, che è un amico, capito, però i cani se non li conosci e neanche loro ti conoscono, è ovvio che si possono anche girare, capito, anche perché poi il cane difende il territorio, quando vede una persona estranea dentro casa, anche se questo è entrato con l'autorizzazione del padrone eccetera, loro lo riconoscono sempre come estraneo, quindi basta un gesto fatto male, capito, e il cane lo può interpretare male e si può girare, capito, è un attimo. E la bombolaio che si è fatto le scale con la bombola sopra le spalle, perché il taglio lo stava per morsicare. E che faccio il terrazzo, perché fa rumore forse. E questi rumori loro li sentono amplificati, capito? Quindi magari gli dà fastidio il rumore. Ehi, aspetta che forse c'è qualcuno che vuole entrare, avanti. Romano. Ciao Luca. Ma sono Luca. Questo è Claudio. Buongiorno. Meglio lo dici. E cos'è? Come la ciocca si di tutti i colori a cava si dice. Ci ho detto qualcuno, ne è uscito lui. Ciao, salutoni a tutti. No, ho acceso il radar per sentire tutto questo casino, siccome riceve solo in FM. Ho acceso la macchina, gli ho detto solo. Ho detto con la faietta, non sento nessuno. E pensavo fosse impazzito l'apparecchio, invece ha visto che già funziona. Sto alternando con l'MC200. Eia. Ma il Bibi lo conosco. E beh, già lo grido. C'era solo l'MC200 BP così. Sei chiaro con questo apparecchio, Ali. Si sentono bene. Lo so, è vecchio, ma già funziona bene. È perfetto. No, quando Antonella esce bene vuol dire che è cuocuomo. Quello c'è feo, No, sta facendo bene Antonella. Ottimo segnalone, come sempre, la radio è perfetta. Carlo Verdone, riprendi. E beh, Alessio, come sta va dalle tue parti? Beh, oggi è bene, ma ieri, ragazzi, c'avevo due giorni un dolore alle spalle che era da crepare. Ho preso di tutto, Spirifen, non riuscivo a moment, non sono riuscito a cavare i piedi. Ah, mi sono girato le balle, sono uscito con mio nipote, mi sono fatto una passeggiata perché si è comprato il monopattino. Sono andato in piazzetta lì al Sidis, mi sono preso una birra, dopo poco ho cominciato a scaldare i muscoli, gli ho detto cazzo, mi che sta facendo effetto la birra adesso, mi sta calmando, meglio delle pastiglie, e infatti sono uscito da dormire ieri notte, a Romanco. Ma ti pare di usare la birra, ragazzo, perché lo spirito non faceva nessun effetto, ma l'odore atroce, che non riuscivo, nella spalla, nel braccio, si radiava verso come si chiama? La cervicale, capito? Perché avevo preso freddo tre giorni prima. E l'unico metodo come facevo è di piantichiche. Quando c'era l'influenza del Covid, l'unica cosa era bersi il vino caldo e poi ti mettevi a letto. Adesso che non so, mi compro la casa di birra. Oh, arrivo subito, devo chiamare mia mamma. Capito, caro, adesso che non so, che può passare due, me ne prendo una cassa. Antonè, sicuramente il pigliato freddo e umido è quello, e quando è così, capito, non c'è che prendere solo la nimesulide, l'aulin, nimesulide, perché quella agisce proprio sulla cervicale, capito? Gli altri sono antinfiammatori un po' blandi e non te lo fanno passare, e a volte di aulin ne devi prendere anche due, una ogni 8 ore, capito? Se vuoi che ti passi nel breve termine, capito? Solo che quello te lo prescrive il medico, capito? Solo con ricetta. Già lo so, ma dal medico sono andato ieri, siccome il mio è andato in pensione, ho fatto richiesta lì nella farmacia vicino a casa e c'è una dottoressa, mi sono presentato ieri mattina, mi sono presentato, c'è l'appuntamento per il 30, capito? Perché va solo per l'appuntamento questa dottoressa qua. E quindi adesso devo portarli il giorno 30 tutti i fogli, in modo che lei si scriva tutte le medicine mie. Vabbè, io già ne ho poche. E Simona, perché altro che una decina ne ha da prendere, capito? E ho capito, tutti in pensione se ne stanno andando i medici, cavoli. Ci sono i nuovi che, insomma, non è che sono tanto esperti e bisogna accontentarsi, almeno comunque hanno il potere prescrittivo, almeno qualche ricetta e qualche certificato ce lo possono fare. Cavolo, stavo leggendo adesso che le poste stanno mettendo lo speed a pagamento, 6 euro l'anno. Ah, già c'ho io la carta d'identità elettronica e la CE, uso quello del gratis, ho trovato il foglio, ho trovato, meno male, perché me l'avevo conservato quando ho preso la carta d'identità elettronica un sacco di tempo fa, ho trovato il codice PIN e il codice PUC della carta, quindi entro col sistema CE, se la piglia in culo lo speed e chi l'ha fatto. Ma se lo devo chiudere questo speed, io ho pagato 25 euro per attivarlo, lo sai. E con chi, Gianni? Io l'ho fatto una cartolibreria. Ah, allora è una società privata. Sì, perché lo puoi fare, capito, da, insomma, con tanti, però quello delle poste era gratuito, io ce l'ho tanti anni e in effetti stava funzionando male ultimamente, capito? Non mi faceva entrare, mettevo le mie credenziali, il nome utente, password e mi diceva non riconosciute. Facevo cambia la password, ne mettevo una nuova, è lo stesso. Se invece fai inquadra QR code, allora col cellulare inquadri il QR code, capito, con l'applicazione delle poste, allora mi faceva entrare. Ho detto, non riesco a capire come mai funzioni così. E ha ragione Antonello, quando lo metteranno a pagamento, perché pare che sia dal 1° gennaio a pagamento, vuol dire che anche io uso la carta d'identità elettronica, che anche quella è munita di PIN, PUC, capito, e ti rilasciano il foglio al comune e quando te la danno devi conservarli e ti fa accedere dappertutto all'Agenzia delle Entrate, in qualsiasi sito istituzionale ti fa entrare, capito, la carta d'identità elettronica. E quindi lo SPID lo metteremo da parte, vuol dire. Ma dice che lo devo valutare lo SPID. Ma è necessario avere questa carta di accompagnamento con la carta? Perché io, vuol dire, sono andato al CAF e hanno usato la mia, per entrare nel sito dell'INPS, hanno usato la carta, capito? carta di identità senza nessun fuglio. Eh sì, ma molto probabilmente loro, capito, se vai al sindacato loro entrano con le loro credenziali e quella la vogliono solo per i tuoi dati, capito, perché immagino sia per quello, perché anche io ci sono stato al patronato per una pratica e mi avevano chiesto se avevo la tessera sanitaria e quella l'hanno sparata, capito? Poi ho visto che lei stava guardando tutta la mia posizione e quindi entrano con le loro credenziali lì sia al centro di assistenza fiscale e sia al patronato dove fai le altre pratiche, capito già? Fra poco io dovrò fare le pratiche per la pensione, quindi mi interessa saperlo di sicuro. Quindi tu stai usando la carta d'identità CIE, carta d'identità elettronica? Esatto, sto usando quella. L'unica cosa che uso è quella lì. Però non ce l'ho messa nel telefonino cellulare perché non mi fido, capito? C'è tappaggetta strana che cerca di entrare nell'account e capito tirare fuori tutta la documentazione. Io a me mi dà fastidio solo vedere qua, lì allo spingere, ce ne sono certi, quando vanno a pagare pagano direttamente qualcosa, col telefonino. Capito? Uno di questi giorni verrà che se dovesse esserci qualcuno dietro di lui che si copia i dati con lo smartphone, più di uno gliene fanno fuori il conto. Ciao, sono un attimo al telefono. Va bene, già siamo qua, già. D'accordo, già siamo qua, non ti preoccupare. E quindi io faccio tutto ma va bene, mi porto la documentazione appresso e beh, basta. Se mi devo fare qualche cosa posso usare il telefono, non scarico niente, né codice fiscale né carta d'identità eccetera eccetera, e tanto meno la carta del reddito d'inclusione, non scarico proprio niente nel telefonino, basta che passa qualcuno e si fa il doppione, a bella volta, a perdere tutta la documentazione, eccetera, eccetera. Con i tempi che siamo, gli hacker ci sono in tutti i posti. E stanno cambiando un sacco di regole, lo stesso la carta d'identità dopo i 70 anni praticamente non te la rinnovano neanche più, capito? Se tu fai la carta d'identità a 70 anni, capito, puoi arrivare anche a averne 100, ti rimane sempre quella, capito, non scade più. Ah, quello sì, già lo so, che avevo fatto fare a Marco io tutta la documentazione, anzi lui si è fatto addirittura, vabbè, lui c'ha 80 anni, quindi ci ha fatto adesso la carta per andare in tram gratis e mi ha detto di passare domani che mi dai i biglietti. Mi hanno preso una vicina, me le sta regalando biglietti del tram. Tanto lui c'ha la cartina, quella che gli ha dato il comune, non paga niente. Mi ha detto anche il sito dove andare per fare la domanda, adesso vediamo un po' se ci divento anch'io, me la faccio anch'io, così almeno non devo stare a rompermi le pappe. Faccio questa tessera e almeno non pago niente, come invalido naturalmente. Mia bella, se parte da 60 anni o 67, non me lo ricordo adesso. Me lo dirà, io chiederò al CAF adesso il 29. Eia, va bene. Esci che proviamo a fare chiamata se per caso c'è Luca. Luca, sei in ascolto, cambio. No, non c'è, mi ha detto che gli è arrivata l'antenna e domani se la dovrebbe piazzare. Ha detto che già la pre-montata dentro casa e domani se non piove. Anche se domani ho visto le previsioni, mi sa che dovrebbe fare qualche goccia d'acqua, ma non so se piove da noi o nella zona di Olbia. Io mi ricordo, doveva fare pioggia temporale, visto che è nuvoloso, c'è un po' di vento, quindi no, è pur freddo pure, c'era solo l'altro. Ieri c'era appena appena il vento, ieri quando sono uscito, poi tutto un tratto il vento si è calmato e è cominciato a esserci freddo, capito, la brina, eccetera eccetera. Diceva, si era sistemato bene, stava bene ieri, intorno ai 16-17 gradi mi pare c'era. Infatti sono uscito col golfo, sono entrato poi a casa e grazie a Dio sono uscito a dormire. Due giorni, guarda, li ho passati da cane, mai un dolore così forte alla, capito, alla clavicola, e poi si è steso alla cosa. Adesso ne parlerò con la dottoressa a vedere cosa diavolo è, a meno che non sia perché ho preso freddo, magari è la vecchiaia purtroppo. È estesa come dicono, la vecchiaia è carogna fondamentale. Per esempio, se tu esci la sera o magari anche di giorno, se sono giorni particolarmente freddi, copriti sempre la testa, copriti la testa, io mi sto mettendo il cappello quando esco, capito? E quando c'è freddo, d'estate no, ma d'inverno quando fa freddo mi metto il cappello, mi copro il collo, capito? E lo stesso anche quando stai dentro casa, un ambiente caldo, mettiti là anche una sciarpina, se stai fermo così tipo al computer, in attesa che si accenda il riscaldamento, magari che c'è un po' la temperatura bassa, capito? Cercare di usare queste piccole questi piccoli escamotage per evitare di avere attacchi alla cervicale, capito? Perché praticamente quei dolori così che si irradiano vanno dal collo, scendono al braccio, capito? Sino a volte a me, quando mi è preso qualche attacco forte, a me sino al bacino, capito, mi faceva male, proprio tutta la schiena, e mi dovevo buttare a letto. Però l'unica cosa che me lo faceva passare era l'Aulin, il principio attivo è l'animesulide, capito? Quello è un antinfiammatorio potente, capito? Infatti meglio prenderlo a stomaco pieno sempre, però te lo deve prescrivere il medico. Però tu glielo devi spiegare alla tua dottoressa quando ci vai, che siccome spesso hai qualche attacco di cervicale, se non ti passa se te lo può prescrivere l'Aulin, capito? Te lo conservi solo in quei casi lì, quando ti viene forte, così ce l'hai sempre a portata di mano. Ho usato la birra ieri, il sistema vecchio, e ha funzionato subito, ha funzionato. Non riuscivo a sollevare mi dava un fastidio, sembrava un handicappato che aveva avuto un incidente, capito, al braccio. Ieri quando sono andato là, ho bevuto una di birra, poi me ne sono preso due per casa, ho cenato naturalmente e poi me ne ho bevuto una prima di dormire e sono stato benissimo. Poi stamane ho preso una pastiglietta di coso di Volcantals, mi sembra che si chiama, che sono andato in farmacia a prendermela di Ciro. Quando vai in farmacia a colpi di 10-20, tu immaginati, io per le gocce di Sivona, che ne prende due modelli diversi, più l'Exotan, 56 euro, ogni volta il colpo 56 euro, ci lascio. E caspitina, Gianni, eri tu, sei rientrato? Sì, allora sono rientrato, ma vi saluto, che peso, mi sta chiamando e vuole andare giù. Io quando scendo giù mi metto il cappuccio, la sciarpa e poi mi dipendo 90 cilindroni. Quando c'è umidità, maledetta, passa dappertutto, capito? E coprirsi la testa possibilmente, cappello, sciarpa e giubbotto chiuso, così un po' lo blocchi il freddo. Va bene Gianni, buona passeggiata. se la risentiamo mi anche io faccio qualche altro passaggio, poi chiudo, mi devo preparare la cena. Ciao Carlo, ciao anche Alice, tutti gli altri amici che sono all'ascolto, vai, ci sentiamo, buona serata. Ciao Gianni, buona serata, buon tutto. Ci sentiamo al limite domani. E andrà bene. No, io ho già cucinato, Carlo, poco fa, ho fatto il pollo, in umido, per me, per Simona e per Tommy. Oggi ha mangiato i gnocchetti Tommy, perché ieri ne ho fatto un chilo, l'ho fatto così almeno mezzo chilo me l'avevo mangiato ieri di pasta, in tre, e mezzo chilo oggi. Ho messo in frigo dentro quelle panelle di plastica che schidono una a tipo, come si chiama quella panella, ci metti la panella più grande, quella più grande prima, poi c'è quella media, poi c'è quella piccola, eccetera eccetera, alla moda cinese, scatole cinesi. E ho capito. Sì, no, io dopo, allora, ieri mi sono fatto, cosa avevo mangiato ieri? Ah no, ieri avevo della carne che dovevo finire con, mi sono fatto un'insalata di pomodori, capito, un pezzo di formaggio, poi ho mangiato la frutta, capito, e niente, quindi... E l'altro giorno mi sono fatto dei ravioli al gorgonzola, li ho trovati alla Conad, ho fatto il sugo ed erano buoni, capito? Anche io ogni tanto già mi appento sui fornelli, capito? E quindi niente, adesso io, siccome sono già le 7:20, vado a cucinarmi qualcosa, Antonella, se no poi si fa tardi a cenare. Va bene, va. Ti auguro buona cena allora, e ci sentiamo al limite domani, intanto penso domani sera, perché domani mattina devo uscire, devo andare dallo spi, comprare qualcosa per Simona, e poi passare da Marco, mi deve dare questi biglietti, poi mi vedo sentato qualche birra insieme a due al circolo, e poi rientro col tram, rientro. E poi domani sera, penso che potrò, perché lui, mio fratello, di solito gli vengono gli attacchi di uscire quando c'è una giornata brutta, esce in carrozzina insieme a me, se no se rimane a casa. Adesso vediamo un po' cosa vuol fare, mi ha telefonato stasera, dice esco con Alessia, mi ha detto, domani sera ci usciamo assieme, e detto va bene, gli ho detto, già sono a casa. E ce l'ho portato la passeggia, se non piove. Va bene, Ale, già ci sentiamo. Io mi domani mattina, tanto sono a casa, domani è mattina e sera. Se esco domattina uscirò sul tardi, ma un'oretta. Quindi non so. Farò anche, proverò a chiamare qua sul 10 se c'è qualcuno. Di mattina, ogni tanto io chiamo, ma di mattina difficilmente trovo qualcuno, forse domani è sabato e la gente magari è in giro e non troverò nessuno. E niente, dai, ci sentiamo domani che me ne vado a cucinare. E alle prossimine, grazie del QSO, e ce la risentiamo. Eia, qui, dai, ciao Carlo, ci sentiamo alle prossime, stavi bene. Buona cena, buon tutto. Ciao ciao e buonanotte, ciao. Altrettanto Carlo, ciao. Allora, nel biubi un buffè a avanti. E cosa fai? Non te ne mangi due pistacchi a vivere. Non